Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, puntata con ospiti in studio. Da Mestre ci è venuto a trovare il rappresentante di un trio rock, a cui do la parola per le presentazioni di rito. Ciao a tutti, sono Alessandro, canto e suono il basso nei Maya Mountains, veniamo da Mestre, giriamo nell'ambito dello stoner rock, sono molto lieto di essere ospite qui con Jean-Luc e sono ansioso di passare un'oretta qui a Rock Legends. E con Alessandro di Maya Mountains, una prima e seconda parte in cui alzeremo i consueti amplificatori al massimo con una scaletta Hard Rock 70s. Iniziamo da alcune esibizioni live. Il primo brano era Fire and Water dei Free dal disco Free Live del 1971. Un pezzo classico che però ha ancora un grande fascino. Che ne pensi? Beh, i Free sono un ottimo gruppo, un gran pezzo questo. L'ambito in cui hanno girato ha generato dei gruppi storici, diciamo. Fino ad oggi sono tuttora vivi, immortali, credo. Paul Rogers ancora adesso la fa da padrone, diciamo. Con i Queen, però, vabbè. Opinabile. Opinabile, esatto. Certamente. voi siete insieme dal 2004, un sunto della genesi del vostro combo e il significato del nome Maya Mountains. Niente, il gruppo è nato nel 2004, ma io e Marco, il nostro batterista, ci conosciamo da moltissimi anni, circa 10, 12, anche 15. Suonavamo insieme fin dai tempi della scuola. Abbiamo sempre avuto vari cambi di chitarristi, abbiamo sempre ricercato di suonare in questo ambito. Dopodiché è arrivato Emanuele, abbiamo formato il gruppo. La nascita del nome non ha niente di strano, ma tutti e due ci siamo trovati d'accordo per dare questo nome, perché ci è venuta l'idea entrambi di chiamarci Maya o Maya Mountains. E allora ci siamo sentiti al telefono quel giorno e fatalità, ci era venuta questa idea senza parlarne. Combinazione di, esatto, di idee, sì. Andando avanti con le storiche esibizioni live, arriviamo al 1972 con gli Slade, la band di Noddy Holder e Dave Hill, famosa per gli sgargianti vestiti, gli zatteroni e per una hard glam rock travolgente, dal disco Slade Alive di quell'anno con il Boogie Hear Me Calling. Il sound degli Slade, oltre ad essere travolgente, ha ancora la sua eco fino ai giorni nostri. Alla luce del pezzo, cosa ci puoi dire? Beh, un ottimo pezzo, un suono molto attuale. Diciamo, ai giorni d'oggi si ricercano molto le sonorità che sono nate negli anni 70, purtroppo. E non a caso. E non a caso, sì, purtroppo non c'è nessuno, diciamo, ai giorni d'oggi in grado di produrre pezzi come quelli dei Free o degli Slade, credo. Influenze musicali dei Maya Mountains, quali sono e quanto incidono nella creazione del vostro sound? Beh, noi ascoltiamo veramente di tutto, ognuno di noi ha dei gusti vasti che spesso non si sposano, però prendiamo delle piccole parti di ciò che ascoltiamo, sicuramente le introduciamo nella nostra musica anche inconsapevolmente, ma è bello. Diciamo che tutti noi ci incontriamo nel gusto per gli anni 70, per certi gruppi di quegli anni, inglesi, americani. Per chiudere questa parte ci affidiamo agli Who. Nel 1970 si esibiscono nel loro più leggendario concerto, quel Live at Leeds, che ora ascoltiamo con il brano I Can't Explain. Spot e poi di nuovo in studio con Alessandro dei Maya Mountains.